Incontri di Gianfranco Fabi. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali. Con la voce di Paolo Conti, buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica ai nostri ascoltatori. Buongiorno e buon pomeriggio a Carlo Tagliaferri. Grazie, buon pomeriggio. Carlo Tagliaferri, presidente di Senta. Paolo Conte è un personaggio mitico della musica italiana, ma questa canzone, poi questa voglia di correre, questa voglia di Bartali, appunto, mi sembra che è un po' anche la sua voglia di correre nel mondo dell'industria, nel mondo dell'impresa. Beh, la passione per Paolo Conte è una passione perché esprime al meglio, secondo me, quelle che sono le nostre terre, i nostri umori, le nostre nebbie, i nostri sapori. Poi naturalmente Bartali è uno che amava correre ed è uno splendido esempio. Ecco, le sue terre, la bassa, possiamo dire, la bassa vista da Milano, ecco, perché è il presidente di Senta, che ha la sua sede principale vicino a Piacenza. Esatto, siamo cresciuti, siamo diventati più larghi in Italia e poi anche all'estero, ma sicuramente le nostre radici sono a cavallo del Po, tra Milano e la pianura. Ecco, Senta forse è un nome che non è molto conosciuto dal grande pubblico perché non fa prodotti di largo consumo, però è una società leader negli apparati telefonici. Ecco, che tipo in particolare di apparati? Ma nel tempo siamo cresciuti a fare le soluzioni più innovative, quindi sicuramente quelle che riescono a coniugare al meglio la comunicazione come strumento di lavoro e naturalmente poi tutto quello che è il mondo delle telecomunicazioni e dell'information technology. Quindi le comunicazioni all'interno dell'impresa, siete... Comunicazione all'interno dell'impresa e comunicazione per quanto riguarda il dialogo tra le macchine, ad esempio per la gestione dell'energia, quindi la gestione dell'efficienza. Quindi ecco, quelli che si chiamano i centralini, forse, le centrali telefoniche... Continuiamo a trascinarci una definizione di centralino, in realtà ormai sono delle soluzioni estremamente complicate, in cui la voce gradualmente è diventata un'applicazione come progressivamente tutte le altre. Ecco, prima della carta d'identità di Carlo Tagliaferri facciamo la carta d'identità di Senta. Quando è nata, come si è sviluppata? Giusto 40 anni appena compiuti, quindi un periodo che sembra breve ma indubbiamente molto lungo per un mondo delle telecomunicazioni che ha fatto poco più di 150 anni, pieno di rivoluzioni, ma pieno di tappe. Per cui c'è anche la tappa di Senta. Rispetto a 40 anni fa, direi che i vostri prodotti sono completamente diversi. Completamente diversi, anche se è rimasto molto dello spirito. Certamente, 40 anni fa si era su un versante tra ricerche quasi di base e un mondo tecnologico molto molto avanzato, oggi è diventato molto più di massa, quindi molto più pervasivo. Ecco, però è un mondo in cui la tecnologia è entrata in maniera direi proprio come un tornado, ha cambiato completamente gli stessi sistemi, cioè il vecchio centralino, per intenderci, il vecchio centralino che c'era, non tanto forse quello che si vedeva nei film con le spinotti che entravano e uscivano, che forse risale agli anni 50, ma anche quelli degli anni 60-70. Adesso sono completamente elettronici, automatizzati, forse troppo sofisticati. Le due cose si compendiano, la tecnologia si sofistica, l'utilizzo diventa sempre più facile per l'utente, quindi questo è un po' il segreto di che cosa succede, per cui la tecnologia cammina molto velocemente, con tantissima complessità, e quindi gli ingegneri trovano grande spazio per le loro iniziative, però contemporaneamente l'utilizzo diventa una componente che deve agevolare, deve facilitare l'utilizzo, il successo poi del perché diventa di massa. Certo, è come il computer, probabilmente il 99,99% delle persone non sanno come funziona, però sanno utilizzarlo, insomma un telefonino, indubbiamente. Certamente, questo è il successo. Ecco, ma in questo punto, in questa necessità di utilizzare le tecnologie più avanzate, che voi comunque avete, perché voi dovete capire come funzionano e costruirle. L'Italia si dice è messa un po' male come ricerca, come innovazione, come capacità di adottare anche a livello industriale le nuove tecnologie. No, credo che su questo fronte siamo sempre una nazione che può vantare delle eccellenze in questo senso. Sicuramente si è profondamente modificato il tessuto industriale in questo da questo punto di vista, in quanto grandi multinazionali progressivamente hanno delocalizzato inseguendo aree di minore costi o di maggiore flessibilità o di maggiore valori economici magari, ma sicuramente rimane sempre un terreno molto fertile. Il mercato un pochino di più soffre, ma questa è la nostra economia che la fa risentire in questo senso. Ecco, però dal punto di vista, diciamo, gli ingegneri di adesso sono ingegneri italiani che escono dal Politecnico, le persone che voi assumete sono comunque in grado di realizzare delle produzioni che competono a livello mondiale. Non ci sono dubbi. Gli ingegneri italiani continuano ad essere di un'eccellente formazione. Semmai il mestiere dell'ingegnere oggi, con un corso professionale molto lungo, con una rapidità con cui cambiano gli scenari, non basta più lavorare in profondità sulla tecnologia, ma bisogna lavorare molto di più sugli altri aspetti, che sono la parte economics, la parte di marketing, e quindi ingegneri che siano un po' più a tutto tondo per un mondo che è molto più complesso. Ecco, il mondo più complesso in cui le imprese italiane comunque con cui devono fare i conti. Quindi, per esempio, la vostra azienda Certa da Piacenza dove guarda, dove è presente, non solo in Italia? Ma intanto guardi in Italia, in quanto siamo cresciuti da un'azienda tipicamente milanese, siamo nati su queste terre e poi ci siamo distribuiti in centro Italia, Tortoreto, quindi in Abruzzo di fatto. Recentemente abbiamo fatto un'acquisizione che ha polo su Roma e che è un allargamento del nostro mercato in Italia, in particolare per il segmento della difesa, ma già da oltre un decennio ha allargato i propri orizzonti sui mercati internazionali. Guardando l'Europa, 10 anni fa l'Europa era un dream, oggi un pochino meno. E quindi si è sviluppata su un paese europeo come la Spagna e più recentemente sta guardando con molto interesse al mercato dei BRIC, e quindi di fatto ha guardato alla Russia costituendo una società un paio di anni fa e sta cominciando a guardare l'Indonesia piuttosto che il Sud America, quindi un orizzonte che si allarga. Ecco, come ci vedono dall'estero? Come vedono la società italiana? Forse c'è un po' di diffidenza verso l'Italia, vista più come un paese magari della moda, del design, ma della tecnologia. È apprezzata la tecnologia italiana? Chi ha modo di apprezzarla poi sì, diventa un grande stimatore della tecnologia. Forse sono gli italiani che non sono poi così convinti di avere questa capacità di tecnologia, di avere la capacità di fare le cose bene, mi lasci dire, no? Certo. Portatore anche di una cultura anche in questo campo, quindi sono un po' gli italiani forse che andrebbero dovrebbero guardare con più attenzione, cioè, dovrebbero avere meno pregiudizi indubbiamente, cioè che un made in Italy non è solo il made in Italy del bello, che è giusto che ci sia, del buono, che è giusto che ci sia, ma è anche quello del ben fatto, del ben costruito, dell'innovazione. Ci può essere spazio? Ecco, l'Italia purtroppo ha perso qualche treno sul fronte delle tecnologie avanzate, delle grandi imprese, della capacità di essere presenti in settori come quello dell'informatica e così via. Ci sono le eccezioni, voi vi considerate un'eccezione? Ci consideriamo un'eccezione anche se non siamo rappresentativi di tutta una filiera che è molto più ampia e molto più vasta, di sicuro. Però il Made in Italy ha comunque la capacità di sfornare prodotti di eccellenza, tenendo conto che è il consumatore alla fine che decide gran parte di quelli che sono anche i prodotti che si realizzano. Quindi un consumatore più sofisticato, avanzato, determina anche di fatto dei fornitori di eccellenze che possono andare su altri mercati. Ecco, un consumatore che in questa fase forse a cui manca un po' la fiducia, c'è un po' uno scenario, concludendo un po' questa prima parte del nostro incontro, è uno scenario forse un po' difficile a livello italiano e a livello internazionale. Come vede il 2013, questo 2013 che è appena cominciato? Io sono di natura un ottimista. Però vedo un anno complicato per il 2013, ma lo guardo con fiducia. Con fiducia soprattutto nel secondo semestre, ma avremo un avvio, diciamo, questo avvio piuttosto complicato, ma dobbiamo guardare soprattutto ad un percorso più lungo. Dobbiamo guardare il 2013 come un anno di ripartenza e guardare il 2014-2015 con estrema fiducia. Un anno in cui probabilmente, speriamo, ci possono essere anche delle soluzioni a livello di stabilità politica, questo rientra. Ce l'auguriamo tutti, naturalmente, ecco, questo. Ci fermiamo qui, ci auguriamo appunto che le cose possano scorrere, magari come scorre il traffico, ma per questo diamo uno spazio appunto alle notizie dalle strade. Grazie, a tra poco. Incontri. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Ancora con Paolo Conte, questa mitica canzone su Bartali. Continuiamo il nostro incontro con Carlo Tagliaferri, presidente di Selta, società leader nella produzione di apparati telefonici, ma anche di apparati per l'energia, non solo telefonici. Abbiamo parlato appunto di centraline, cioè qualcosa che smistano le comunicazioni, che smistano i flussi anche di energia. Ma siamo soprattutto dei leader nel campo della gestione dell'energia. Quindi è lunga come la nostra storia. Oggi le chiamiamo smart grid, quindi più intelligenza nelle reti, ma sicuramente la capacità di gestire reti di trasporto, reti di distribuzione, reti di distribuzione verso il consumatore. Anche perché lo scenario si è fatto un po' complicato, magari positivamente complicato negli ultimi anni: le energie alternative, l'eolico, il fotovoltaico, tutti producono energia, ma bisogna poi convogliarla, utilizzarla al meglio, cercare di sfruttare appunto nella maniera migliore questi tipi di energia, che sono stati anche incentivati forse in maniera un po' eccessiva, qualcuno dice. Però appunto c'è una complessità di mercato, voi cercate di mettere un po' ordine in questo. Ma intanto l'Italia ha un record positivo da non dimenticare. I nostri padri già negli anni 50 e soprattutto negli anni 60 hanno pensato all'energia con la modalità non solo di produrla, ma soprattutto di trasportarla e di distribuirla con efficienza. E in questo senso l'automazione ha soccorso prepotentemente per ridurre i nostri sprechi. Gli specchi di trasporto, quindi è una rete molto efficiente. Ecco, anche perché l'energia ha una particolarità, che è difficile immagazzinarla, bisogna produrla e consumarla subito. Le reti sono nate su questo principio, cioè si producono in alcuni punti, si distribuiscono e tipicamente oggi sono nelle dorsali da nord verso il centro-sud. Una grande complessità è intervenuta con le nuove generazioni, quindi le generazioni ecosostenibili, che vengono a modificare questo scenario di reti in cui la produzione necessariamente non è vicina al suo utilizzo, non è una direttrice necessariamente una direttrice nord-sud, ma è prevalentemente una direttrice di generazione sud e utilizzo nord. Quindi, si disperde molto l'energia nel trasporto. E si ne perde in alcune quote di qualche percento, ma sono quote importanti in questo senso. Poi soprattutto c'è un utilizzo che non è piatto. La produzione tipicamente ha una produzione, diciamo così, molto, molto stabile, è il consumo che è molto variabile. Oggi le energie alternative, specialmente il fotovoltaico ma anche l'eolico, sono energie che vengono prodotte quando gli eventi climatici la rendono disponibile. Quindi il problema dell'immagazzinaggio è ancora più forte, ma è un tema del presente e del futuro. Certo, un tema su cui voi siete presenti come azienda con delle soluzioni operative, soprattutto per chi l'energia la produce e la distribuisce. Beh, sicuramente in questo campo le tecnologie dell'information and communication technology, dell'informatica, dell'automazione aiutano grandemente a coniugare il momento del fabbisogno, il momento del rispetto a quello della produzione, ma soprattutto farlo con molta efficienza. Qui c'è un po' un terreno comune tra la voce, i dati e l'energia, sono tutte cose da prendere e distribuire nella maniera ottimale. Una splendida convergenza, potrei dire, specialmente per Selta, che può mettere in campo la sua conoscenza del mondo delle telecomunicazioni, la sua conoscenza dell'automazione locale, dell'automazione centralizzata, e quindi può coniugare al meglio queste competenze e mettere ed offrire al servizio della clientela e della crescita del sistema paese. Ecco, sistema paese, appunto, sistema paese che ha tanti problemi ma anche tante opportunità, come abbiamo visto anche con la grande capacità delle imprese di far crescere le loro esportazioni nell'ultimo anno. Voi siete una media impresa in fondo. Siamo assolutamente una media impresa. Ecco, perché è così difficile che le medie imprese diventino grande impresa o che le piccole imprese diventino medie imprese? Perché è così difficile che un'azienda in Italia cresca anche come dimensioni? Beh, intanto il riflettere un mercato domestico di una certa dimensione, anche l'Italia è un sistema di una media nazione in questo. Per poter aumentare la capacità sui mercati occorre internazionalizzare o essere in uno dei grandi sistemi paesi come gli Stati Uniti, come il Brasile, come la Russia, altrimenti bisogna pensare che le aziende italiane possano guardare o traguardare mercati più ampi. Il mercato della comunità europea può essere uno, anche se molto affollato, sicuramente molto stabile, ma la crescita possibile è guardando all'estero. Il mercato domestico non è più in grado su delle medie aziende di riuscire a farle crescere ulteriormente. Poi dipende dai settori, naturalmente. Ecco, le vostre linee strategiche per crescere, quali sono i punti di forza che sicuramente, come tutti gli imprenditori, lei ha in mente per far crescere la propria impresa? Beh, un po' la diversificazione. Quindi sicuramente abbiamo faremo delle azioni sul mercato italiano per entrare in nuovi segmenti. Il più recente è stato quello di essere entrato nel mercato delle telecomunicazioni per la difesa, quindi in un mondo delle reti sicure in cui crediamo fortemente che saranno uno dei driver importanti, uno dei punti di crescita, di maggior sviluppo e di maggiore necessità per gli anni a venire. L'altro è il mercato internazionale, anche se sono mercati complicati, nel senso che c'è la politica, c'è la geopolitica, c'è l'economia, e quindi stiamo guardando con molto interesse, anche con successo, i mercati internazionali. Abbiamo raggiunto al termine del primo decennio di sviluppo il 50% dei mercati all'estero e traguardiamo di poterli sviluppare ulteriormente. Ecco, in questa prospettiva c'è bisogno anche di competenze, di professionalità. I giovani che escono dall'università sono pronti ad offrire queste per competenze? Per affrontare queste sfide occorre un'organizzazione aziendale. Occorre poterlo fare quando le spalle dell'azienda in termini di managerialità, in termini di dirigenza, di ossatura, può portare queste sfide. Ecco, che cosa dice un giovane, un neolaureato che entra nella vostra impresa? Qual è la prima cosa che dice per metterlo in guardia o magari per dargli delle motivazioni giuste? La prima è naturalmente, oltre al grande impegno, che la formazione continua e continua una vita. E questa è sicuramente una sfida grande. C'è un percorso professionale lungo, ma soprattutto con una variabilità molto alta, e di non avere paura di potersi cimentare in campi diversi. Quindi sicuramente quello di fermarsi in una sola area può essere un grandissimo limite per la crescita successiva. Ecco, tra qualche settimana andremo a votare, senza entrare nel campo politico, però qual è il suo giudizio delle riforme che sono fatte nell'ottica dell'impresa negli ultimi mesi e cosa si aspetta dal nuovo governo sempre nell'ottica dell'impresa, con queste riforme che toccano da vicino l'impresa, il mercato del lavoro, le pensioni, la stessa politica fiscale? Che cosa sono secondo lei le priorità che un nuovo governo di qualunque colore sia dovrà avere? Dare stimoli all'impresa perché possa svilupparsi. Il carico fiscale oggi è molto elevato e quindi frena anche tutte quelle che sono le altre iniziative in termini di sviluppo da un lato, di inserimento di nuove leve dall'altro, in termini di crescita. La seconda è più culturale ed è il crescere un'idea di imprese come parte sociale importante per lo sviluppo delle attività e poi di fatto del sistema paese, quindi non a difesa ma in termini di sviluppo. Però sicuramente questo è fondamentale. Quindi un'impresa non come il limone da spremere sotto il profilo fiscale, ma che è qualcosa che è un traino per la società. Traino. Ecco, in questa prospettiva, per esempio, questa modifica delle pensioni, l'innalzamento dell'età pensionabile, sento, ma è un po' un ostacolo a far entrare dei giovani, perché se gli anziani non lasciano il posto, in fondo di spazio per i giovani non ce n'è, però lo spazio bisognerebbe creare con la crescita, creando dei nuovi posti di lavoro. Senza crescita diventa difficile, anzi senza crescita in un campo in cui l'information technology, l'informatica tende a essere uno strumento portante per il cambiamento dei processi, quindi sostanzialmente lavora come riduzione, certo. Cambia la qualità, ma in genere deve aumentare l'efficienza, ma ne abbiamo bisogno di aumentare l'efficienza in tutti i settori. Quindi quello di cui ci occupiamo noi può essere un grande aiuto, un grande driver per migliorare i nostri processi, per renderli più efficienti. Però è altrettanto vero che dobbiamo puntare a fare sviluppo. Senza sviluppo non si riesce a dare nuova linfa, perché abbiamo bisogno di nuova linfa. Lo spostamento e la nuova legge, anche Fornero, sulle pensioni, di fatto allunga la vita professionale, e sarà una sfida che abbiamo davanti come organizzazione, come impresa, a valorizzare non tanto i giovani, o non solo i giovani, ma anche quelli che hanno raggiunto una maturità, una professionalità aziendale, ma che hanno ancora un lungo percorso di vita professionale davanti. Quindi è una grande sfida, cioè proprio la sfida di far crescere complessivamente l'impresa, perché cercare di difendere i posti di lavoro in maniera così un po' astratta. Certamente le nuove tecnologie in pratica aiutano anche a diminuire la necessità di lavoro per fare le stesse cose. Bisogna riuscire a farne di più per riuscire appunto a far crescere l'impresa, a far crescere l'esportazione, a far crescere poi il sistema paese. Però se riusciamo a mettere insieme l'esperienza della maturità e la gioventù, credo che possiamo davvero armarci per affrontare i mercati internazionali. Affrontare i mercati internazionali vuol dire comunque esportare competenza, vuol dire affrontare complessità, e quindi le esperienze sono particolarmente preziose. E questo in fondo è un compito dell'imprenditore, della passione imprenditoriale, riuscire a organizzare le competenze, a valorizzare i giovani e a valorizzare anche motivando chi è meno giovane. E quindi coraggio a Carlo Tagliaferri, un augurio per il 2013. Grazie per l'augurio, veramente sentito. Grazie Carlo Tagliaferri, presidente di CERTA, società leader nella produzione di apparati telefonici ed energetici. Grazie a Carmelo Larricella in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.